Vacca, vacca, bargamina, con tricoron sulla schina, trighi dori, trighi pun, trivacciama vaccarol, vaccarol un po' venir, povera vacca ti è morir, mori, mori, povera vacca, cat fare una nuova casa, sotto il ponte di Bologna, in ducchi canti, in ducchi suona, in ducchi pista, l'erba buona fan fingoc, cantarina dal veloce, dal veloce, dal belucial, cantarini innamorati, innamorati un bel barbier, dengla dengla parmuier, parmuier angla vuoi dar, emla mica so suonar la tamburella, so vudar la mia scudella, so tagliar la pennicuc, par basar in mamaluc. Thank you. 30 minus 10. Sui suoi albi 134,5 unverändert. Roche 95.000 minus 500. Roche Genussscheine 89.